Che dire, io devo chiudere un interessante articolo che voglio segnalare a tutti i genitori, quelli che sono apprensivi, che seguono i figli, che magari vogliono sapere le password dei loro figli, quelli che si dilungano a discutere è meglio lasciarli liberi o è meglio leggere cosa scrivono su Facebook, è meglio sapere o meglio non sapere. Sappiate, scrive a pagina 29 il Corriere, un'intera pagina. Ci sono ormai le app, e sono tantissime, per controllare dove vanno i tuoi figli. L'avviso è ai genitori ficcanaso, apprensivi e iperprotettivi. Le app per gli smartphone gratuite per sapere tracciare con la precisione del metro quadrato dove si trova vostro figlio, vostra figlia in questo stesso istante. C'è anche un articolo di Francesco Piccolo, scrittore intellettuale, che dice, ma insomma, lasciamoli liberi, troviamo il coraggio di non avere paura. C'è un pensiero del profeta di Gibran, scrive Piccolo, che vive nella mia testa dal giorno in cui ho soltanto immaginato che avrei avuto un figlio, ed è questo il pensiero. I tuoi figli non sono i figli tuoi, sono i figli e le figlie della vita stessa. Tu li metti al mondo, ma non li crei. Sono vicini a te, ma non sono cosa tua. Puoi dar dimora al loro corpo, ma non alla loro anima. Perché la loro anima abita nelle case dell'avvenire, dove a te non è permesso di entrare neppure col sogno. Tu sei l'arco che lancia i figli verso il futuro. Ecco, Francesco Piccolo, partendo da questa considerazione dello scrittore poeta Gibran, dice: la verità è che i genitori hanno paura per i loro figli. La paura è senz'altro un'espressione d'amore, ma non è certo la migliore. Ecco, lasciate un po' di libertà ai figli, lasciamoli liberi, trovate il coraggio, cari genitori, di non avere paura. Dunque non scaricatevi queste app per sapere dov'è mio figlio in questo momento, vado a controllarlo con l'app sullo smartphone, lo traccio, lo seguo, lo perseguito. Il giornale radio e poi rientriamo alle 8:20. Siamo qui alle 8:20 minuti, allora ben ritrovati da Alessandro Milan. Più avanti alle 8:30 parleremo allora della vicenda del capo dello Stato, le intercettazioni, le polemiche. Prima però vogliamo parlare di un'altra vicenda annosa, questa possiamo dire, no? La questione delle province. Saluto il presidente della provincia di Matera, Francesco Stella. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è di una lista civica di centrosinistra. Certo. Provincia di Matera, siamo in Basilicata, è una delle province destinate per i nuovi criteri fissati dal governo Monti a scomparire, a morire, Presidente. In teoria questo ci è stato già dato come scelta. Noi siamo qui per contestare quanto è stato deciso, lo stiamo facendo nelle forme più democratiche, ricorrendo agli organi giudiziari. Siamo fiduciosi che questa scelta, ahimè, sciagurata rispetto a un territorio e soprattutto a questi parametri che noi riteniamo non fondati sotto nessun aspetto. Allora, le mosse democratiche, la provincia di Matera ricorre al TAR del Lazio contro la decisione del Lazio, perché è la decisione del governo Monti, e quindi siete dovuti ricorrere al TAR del Lazio per questo motivo. Siamo già pronti per depositare i primi giorni della settimana prossima, dopo la firma da parte mia del ricorso, depositarlo al TAR Lazio, augurandoci che entro il mese di settembre noi si possa avere un riscontro rispetto a un'istanza di sospensiva, e poi nel merito, perché riteniamo che nel merito ci sono fondati motivi da parte nostra perché il provvedimento venga cassato. Ma al di là dei fondati motivi tecnici, Presidente, lei si rende conto che la gente, forse anche accanendosi nei confronti delle province, ma che sono diventate l'emblema di un qualcosa che da anni è annunciato e non si fa mai in Italia, potrebbe dire: ma basta, ma addirittura bisogna ricorrere a un TAR del Lazio per bloccare una scelta legittima di un governo, una scelta politica, se vuoi. Noi riteniamo che molto probabilmente le intenzioni del governo centrale di ridurre o di revisionare la spesa è legittima, ma non credo che siano le province i punti strategici da colpire immediatamente. Noi siamo per la parsimonia, per la spesa contenuta, per la riduzione, ma questi provvedimenti che il presidente Monti ha invocato oggi, ha chiesto a tutti gli italiani e alle amministrazioni, noi lo abbiamo già applicato sin dal mio personale insediamento all'interno di questo. Però qualcosa bisognerà fare, bisognerà tagliare, a cominciare da cosa? Col principio che noi non iniziamo per primi, non si fa mai nulla in Italia, non si fa mai nulla. Credo che i tagli sono stati già invocati e non solo, le ripeto, noi l'abbiamo fatto sin dal 2009, prima che Monti diventasse Presidente del Consiglio. Sì, lei dice noi abbiamo fatto i tagli, ci siamo un po' prosciugati il bilancio, ma io parlo di tagli proprio, cioè togliere alcuni livelli istituzionali e anche burocratici, ecco. Assolutamente, ma la sburocratizzazione o il miglioramento e l'efficientamento della pubblica amministrazione sono parametri già insiti all'interno di questa amministrazione e credo nella maggioranza delle province, perché la provincia svolge un ruolo costituzionale significativo. La nostra ha circa 100 anni dalla nascita, dal 1927, eravamo capoluogo di regione, oltre ad essere provincia nel 1868. Dica la verità, lo dice con una punta di malinconia, cioè, perché assolutamente si rende conto per l'esigenza e il bisogno che questo territorio, noi abbiamo un'orografia particolare, è particolare perché abbiamo un'estensione di 3.500 chilometri, una popolazione di circa 200.000 abitanti, siamo convinti e persuasi che questo potrà danneggerà ulteriormente questo territorio che è già carente di infrastrutture. Però Presidente, chiariamo una cosa, cioè sono stati stabiliti nuovi criteri, cioè l'estensione territoriale, il numero di abitanti, non è che le province, non è che si cambia la Costituzione, vengono accorpate, cioè voi andreste sotto potenza, ecco, questa forse è la cosa che... Le immagini anche un po' assurdo avere un'unica regione o un'unica provincia, a questo punto potrebbe anche evitare, perché la nostra è già una piccola regione di appena 590.000 abitanti. Togliamo anche potenze, insomma. Appunto, no, ma soprattutto... Lei guardi, si fa del male, dice così. Il problema nostro è un altro, se accorpamento ci deve essere, non ci possono mettere paletti che non ci consentono di aprirci al territorio. Noi abbiamo già zone della vicina Puglia, comuni, entità importanti della vicina Calabria che avevano già aperto una disponibilità per eventuali accorpamenti interregionali che potessero dare dei parametri. Ma il dato che noi contestiamo... Cioè lei sta dicendo che ci sono dei... perché questa è bella, ci sono alcune province lo fanno, stanno cercando di inglobare ulteriori comuni per rientrare nei parametri di estensione e salvarsi così. Certo, però io voglio ricordare ai radioascoltatori anche il dato essenziale. Perché i parametri sono stati mutati in corso d'opera? Siamo partiti con parametri di almeno 3.000 metri quadrati di estensione e poi sono stati modificati in 2.500. Quali motivi giuridici fondati hanno spinto il governo a modificare questi parametri? Un po' di più, 3.000 metri quadrati. No, 2.500. Adesso sono 2.500, prima erano 3.000 chilometri quadrati. 3.000 chilometri. Noi li avevamo prima, li abbiamo ancora adesso. Dei due parametri richiesti ne abbiamo almeno uno. Abbiamo un'orografia particolare che veramente metterebbe in grosse difficoltà un territorio che già sconta dei problemi di ordine infrastrutturale, di ordine operativo. Ma noi non stiamo difendendo, ed è giusto che si dica, assolutamente la nostra posizione personale. Non è una difesa di casta. Ma assolutamente no, perché un amministratore a full time, come il presidente della provincia di Matera, prende 2.800 euro mensili. 2.800 senza euro? Senza auto blu. Beh, questo è uno scandalo, se la metta l'auto blu, lei è presidente della provincia. Ma guardi che io... nella mia politica amministrativa condivisa dal centrosinistra abbiamo ridotto immediatamente gli assessori da 8 a 6, rispettiamo il patto di stabilità nei 3 anni di amministrazione. Insomma c'è accanimento, lei dice la gente si accanisce, l'opinione pubblica ha visto le province come il capro espiatorio per tagliare qualcosa. Ma non è la gente, credo beh, che la gente un po' sì, le forze politiche che hanno voluto dare alla gente un contentino per dire noi stiamo facendo qualcosa, ma credo che siano ben altri gli ambiti importanti e significativi dove poter si drenare risorse finanziarie. No, su questo non c'è dubbio. Senta, Presidente Stella, le chiedo questo. Lei ha detto come prima cosa faremo questo passo democratico di lotta democratica, e se lo perdete ci sono altre battaglie che potete fare se non questo. Voglio ricordare ai radioascoltatori, a lei, che 10 anni fa in provincia di Matera si è tentato di mettere un deposito di scorie nucleari. Sì. Scanzano ionico. Bene. Io non vorrei ricordare questo tipo di azioni, perché ritengo che il popolo lucano e soprattutto quello materano è un popolo civile, perché allora si fece una protesta civile, il governo centrale... Se la vede la gente in piazza per difendere la provincia, sa, se il materiale... Il materiale... Posso garantire sì, perché i 31 sindaci il 17 agosto erano tutti qui in pieno periodo feriale a invocare, a ribadire e soprattutto a dare a noi piena delega per difendere il territorio, la nostra economia. Ma la gente, il popolo, sa, se uno dice mettiamo il deposito di scorie, la gente dice che è il deposito, ma la gente che difende la provincia, i materani che difendono la provincia, i lucani che difendono la provincia, io credo di sì, anche perché, le ripeto, sono nati già dei comitati spontanei di cittadini che non hanno da difendere né caste né poltrone, perché hanno molto probabilmente apprezzato anche il lavoro dell'amministrazione, perché questa è l'interfaccia primario rispetto anche alle amministrazioni locali, i comuni. Noi stiamo cercando di riformare in aree vaste, in aree complesse, vari enti. Noi abbiamo soppresso gli enti inutili, noi abbiamo dato segnali significativi di una volontà e di una determinazione che la revisione non ce la devono imporre, ma dobbiamo fare noi come libera scelta. Perciò dico, questa scelta calata dall'alto, non imposta non in tempi anche molto ristretti, ci lascia molto perpresi. Va bene, staremo a vedere come va il ricorso al TAR che depositerete settimana prossima. Va bene, siete la prima provincia a fare questo, mi risulta. Credo proprio di sì, ma il Sud non insorge, il Sud è presente. Il Sud è presente. La ringrazio, Presidente. Grazie a lei, Francesco buona Stella, giornata, Presidente grazie. Della provincia di Matera, ricorre al TAR del Lazio contro... la scelta del governo Monti di accorpare, rivedere le province, c'è sempre un TAR a cui ricorrere, in Italia, vedete, è così. La pubblicità, tra 3 minuti riprenderemo dalla vicenda che sta creando un dibattito istituzionale molto molto greve, anche con polemiche, la dura nota del Quirinale ieri all'articolo di Panorama che parla delle intercettazioni Mancino-Napolitano, una vicenda abbastanza intricata, ne ricostruiremo e ne parleremo tra pochissimo, anche se volete col vostro contributo 800 24 00 24. Queste telefonate di Napolitano è intercettato perché parlava al telefono con Nicola Mancino dalla procura di Palermo, è giusto divulgarle, non è giusto divulgarle, che ne pensate? Sentiremo il popolo che ne pensa tra poco. 24 mattino. La vicenda di cui parliamo alle 8:33 minuti è della trattativa Stato-mafia, la procura di Palermo che indaga, le telefonate nelle quali è finita anche la voce del capo dello Stato Giorgio Napolitano, perché parlava al telefono con la persona intercettata, Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno. Su tutti i giornali, oggi tutti i giornali praticamente aprono su questo con commenti, dibattiti, perché? Allora ricostruiamo gli ultimi 2 giorni. 2 giorni fa Antonio Di Pietro, qui ai questi microfoni, parlando di queste telefonate, ci disse questo, sentiamo. La Procura della Repubblica ha già detto che non c'è niente di rilevante per quanto riguarda l'espressione riferita dal Capo dello Stato, quindi non ha nulla sul piano tecnico-giuridico da temere. Probabilmente si sarà lasciato scappare qualche parolaccia di troppo nei confronti dei magistrati, e questo detto dal Capo dei Magistrati, perché il Presidente del CSM non appare opportuno, quindi lo avrà fatto per delle ragioni sue personali. Perché lei è sicuro di questo? Cioè, secondo lei Napolitano ha insultato, avrà detto qualche parolaccia? Posso sapere cosa ha detto, resta il fatto però che in questo momento, con quel provvedimento, oggettivamente, al di là della sua intenzione o meno, i magistrati della Procura di Palermo si ritrovano ad essere delegittimati nelle loro azioni. Allora, Di Pietro ci aveva detto mercoledì mattina, probabilmente Napolitano lo fa per motivo personale, avrà detto qualche parolaccia di troppo. Il giorno dopo, ieri, esce Panorama, con questo scoop in prima pagina, ricatto al presidente, l'articolo si vuol chiedere cosa si sono detti il presidente della Repubblica Napolitano e Mancino, e si parla in questo lungo articolo, secondo indiscrezioni, di queste conversazioni nelle quali, secondo Panorama, sarebbero stati espressi proprio giudizi privati e taglienti da parte di Napolitano nei confronti di Di Pietro, nei confronti di Berlusconi e parte dei PM di Palermo. Ieri la durissima nota del Quirinale, che parla di autentiche falsità, con un ossimoro per rafforzare quello che viene definito un attacco nei confronti del Quirinale. Ne parliamo con il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella. Buongiorno Maurizio e benvenuto. Ciao Alessandro. Alessandro e ciao, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Saluto anche Peter Gomez del Fatto Quotidiano, buongiorno Peter, eccoci qua. Buongiorno a voi, buongiorno Maurizio. Allora, intanto Tortorella, la domanda che si pongono molti è questa, anche sui giornali, non so se hai già avuto modo di vedere molti commenti anche taglienti e duri nei confronti di Panorama. Panorama fa un lungo articolo parlando di indiscrezioni, non c'è una sola parola di quello che ci sarebbe in queste intercettazioni, ma un si dice avrebbe detto questo, indiscrezioni, condizionali, ecco da qui che nasce l'idea, questo è un attacco basato sul nulla. Il procuratore Ingroia in un editoriale dell'Unità dice: non ho mai letto un articolo del genere fatto solo di illazioni, supposizioni, ma niente di concreto. Allora, una premessa che è doverosa. Il Panorama ha assunto questa iniziativa allo scopo di mostrare tutti i giochetti che da mesi stavano andando avanti, e quelli veramente erano attività delegittimante e attività in qualche maniera ricattatorie nei confronti del Quirinale. La posizione di Panorama è trasparente da questo punto di vista: basta con i giochetti, basta con le illazioni. Il problema che sottende a tutta questa vicenda è che è stato indebitamente intercettato il Presidente della Repubblica e che tutto è partito in una maniera assolutamente anomala, perché Nicola Mancino, ex ministro, ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato posto sotto intercettazione negli ultimi mesi del 2011 fino al marzo 2012, quando ancora non era indagato dalla Procura di Palermo. È evidente che nel momento in cui si mette sotto intercettazione il telefono di una persona, in questo caso un importante politico, ma potrebbe essere chiunque ovviamente, perché il garantismo deve valere per tutti, dentro di me vale per tutti, dal primo all'ultimo cittadino, è evidente che in qualche maniera tutti coloro che avrebbero preso contatto o sarebbero stati contattati con Mancino sarebbero stati intercettati, ed era evidente, era assai probabile, mettiamola così, per usare una locuzione avverbiale di altro genere, che tra questi interlocutori ci sarebbe stato anche il Presidente. Cioè l'idea è dire mettere sotto intercettazione Mancino per pescare nella rete anche pesci grossi che avrebbero inevitabilmente parlato con lui. Poi, nel momento in cui è Panorama a rivelare, 20 giugno di quest'anno, che tra le intercettazioni di Mancino era capitato incidentalmente, casualmente, usiamo degli avverbi di altro genere, anche il Presidente della Repubblica, ha aperto le danze di questa stranissima operazione, di questa operazione che, io ripeto, è anomala sotto vari aspetti e sotto varissimi punti di vista. Aggiungo, perché voglio essere duro fino in fondo, che la posizione di Panorama sulle intercettazioni è chiara da sempre, quella poi di chi ti parla è chiara anche anche forse ancora di più. Io c'ho scritto anche un libretto sull'argomento. Su questo poi lo vedremo, perché oggi su alcuni giornali dice è chiara anche perché l'editore di Panorama è Silvio Berlusconi. E rispondi subito a questa domanda, cioè chi vi accusa di avere fatto questo articolo per delegittimare il capo dello Stato, passami questa espressione ovviamente, braccio armato editoriale del politico Silvio Berlusconi. Solite cose, quando Panorama fa qualunque cosa è propalazione oscena della destra più vieta e del berlusconismo più orribile, quando poi le fa invece altra stampa, ovviamente nessuno dice nessuno usa lo stesso metro, ed è abbastanza disgustoso francamente. Ma al di là di questo, che mi scivola addosso come l'acqua sulle piume di una papera, tra l'altro chiamandomi Tortorella forse la cosa farà anche ridere qualcuno, ma mi fa forse onoramente incazzare. A parte questo, la posizione di Panorama sul tema intercettazioni è sempre stata uguale, identica da quando io ricordi, e lavoro in questo giornale dal 1991. È indecoroso, è incivile, è al di là di qualunque forma di convivenza civile. Non esiste nessun paese occidentale, in nessun paese civile, l'utilizzo delle intercettazioni che si fa in Italia. Fermati qui allora, perché hai già messo carne al fuoco, vorrei da Peter Gomez del Fatto Quotidiano sia la posizione iniziale interessante di Maurizio Tortorella, dice l'abbiamo fatto anche per svelare tutti questi giochetti che da mesi nascono, soprattutto da quando è stato indebitamente intercettato il Presidente della Repubblica. Su questo so che la linea del Fatto Quotidiano è chiaramente diversa, e poi Peter Gomez ha anche una replica, però ciò che dice il direttore di Panorama, Giorgio Mulè, che oggi in un'intervista al giornale dice vedere quelli del fatto, i maestrini del fatto, invocare l'intervento dell'ordine dei giornalisti o dire che non si possono usare fonti anonime mi suscita una reazione di rigetto, se mi permettete. Peter Gomez. Beh, abbiamo Giorgio Mulè, da quel punto di vista devo dire che ha ragione. Abbiamo avuto due colleghi, peraltro molto bravi, che nella fretta di chiudere un pezzo in serata hanno espresso male quello che volevano scrivere, dicendo che su questi, la cosa che sarebbe stata giusta ricordare è che su casi come questi, in altre occasioni è intervenuto l'ordine dei giornalisti, e secondo me ha fatto assolutamente male. Qua la questione è abbastanza semplice e vorrei anche semplificarla rispetto a quello che diceva la dottorella. Cosa Mancino si sia detto col capo dello Stato nel momento in cui il capo dello Stato chiede che quelle intercettazioni vengano distrutte immediatamente, senza che, come stabilisce la legge oggi vigente, che magari è sbagliata, passino per il vaglio di un giudice, perché l'articolo 111 della Costituzione dice che le parti in un processo dovrebbero essere sedute su un piano di parità, e quindi all'interno di quell'intercettazione, se io sono uno degli imputati dell'inchiesta sulla trattativa ma Stato Mafia, devo avere il diritto di andarle ad ascoltare per sapere se c'è qualcosa che serve per scagionarmi. Per questo vanno passate per un vaglio del giudice. Può essere che sia sbagliata la legge, che non preveda qualcosa, va rivista. Quello che volevo dire è che Panorama ha pubblicato una notizia, poi l'interpretazione sulla notizia è libera. Quello che a me non è piaciuto, ma io non sono qua a fare il maestro di una penna rossa perché non l'hai mai fatto, io quel pezzo l'avrei scritto in maniera diversa, dato che penso che i colleghi di Panorama si muovano con professionalità, come tutti i colleghi, avevano delle voci che circolavano, sì, saranno andati a verificarle e saranno stati certamente ben certi che fossero esatte. Io credo che siano sostanzialmente esatte, perché viste le non smentite del procuratore o delle finte smentite del procuratore di Palermo Messineo, e visto quello che ha detto lo stesso Mancino, io penso che effettivamente in quelle telefonate, come scrive Panorama, Napolitano si sia lasciato da dei giudizi molto pesanti sia su Berlusconi che su Di Pietro che sui magistrati di Palermo. Quello che non mi è piaciuto in quel pezzo, ma questa è una questione di gusti e di stile, è che tutto questo sia stato fatto risalire a un presunto complotto, diciamo, sì, forse complotto è sbagliato, che fa capo, si citavano tre articoli, e per la dimostrazione il direttore di Repubblica Ezio Mauro, il vice direttore del Fatto Marco Travaglio e un articolo del Foglio a firma di Adriano Sofri. Chiunque sappia come vadano le cose del mondo non può pensare che queste tre persone, che nemmeno si prendono un caffè tra di loro, possono partecipare a qualsiasi tipo di complotto. Di complotto, tra virgolette. No, finisco il discorso. È interessante rispetto all'utilizzo che si fa, ma questo è normale e legittimo, delle notizie, le reazioni che abbiamo visto trapelare oggi di Silvio Berlusconi. Sì. Non dico che sia il mandante di questa operazione, ma che però ha detto adesso vede Napolitano cosa si prova a stare sulla graticola. Questo, e mi pare che questa sia una cosa, e altre dichiarazioni del PDL. Quindi, al di là, cioè, quello che però è solo una questione di gusto, non a lanciare la notizia e nascondere la mano. Panorama aveva una notizia, l'ha scritta perché fanno i giornalisti, sì, sì. Poi in separata sede possono dire che le intercettazioni gli fanno schifo, non fare un pezzo per dire tutto ci fa schifo, tutto il resto le diamo l'ipocrisia tutta, e poi buttare sì, in qualche modo l'accusa, se vuoi ripartiamo da qui dopo le informazioni sul traffico, anche Maurizio Tortorella a dire avete voluto svelare questo giochetto, e la posizione di Panorama comunque sul tema intercettazioni è nota da anni. Legando le due cose uno può dire ecco che allora nasce questo articolo. Però la domanda che vorrò fare a Maurizio Tortorella ripartendo è che, come dice Peter Gomez, che dice penso davvero che Napolitano abbia detto queste cose, però penso che Cioè qui si sta parlando della massima carica istituzionale, il Quirinale, che in una fase difficile dell'Italia, dicono molti, non deve essere delegittimata, è una fase particolare anche politica dell'Italia in vista delle prossime elezioni. Allora, è il caso di fare un articolo su penso che o si suppone che abbia detto questo, senza scriverlo in maniera chiara che cosa ha detto? Tra poco. Allora, Maurizio Tortorella, poi risponde anche a Peter Gomez, ma la domanda non è questa: non c'è il caso di, usiamo questo termine, sputtanare la più alta carica istituzionale dello Stato con tanti si dice o pensiamo o probabilmente ha detto questo? Beh, ma scusami, questo non l'abbiamo fatto noi, questo per alcuni mesi è stato fatto da altri. Noi abbiamo smascherato un gioco, abbiamo detto che laddove su altri giornali venivano proposte ipotesi di scuola, perché questa è stata una formula adottata, laddove si diceva Berlusconi, Napolitano, se avesse detto, avesse pronunciato giudizi estremamente pesanti su Berlusconi, lo ha fatto Ezio Mauro su Repubblica il 24 di questo mese. Voi per la prima volta avete scritto un articolo mettendo in copertina dicendo molto probabilmente ha detto questo, giudizi su questo. Alcune fonti hanno confermato, fonti evidentemente di una certa attendibilità, hanno confermato che quello che andava sui giornali da tempo era esattamente quello che poi era il contenuto delle intercettazioni. Questo è quello che esattamente abbiamo scritto. Ovviamente nessuno di noi ha ascoltato le intercettazioni, perché presumo siano ben custodite nella cassaforte della che ne pensi del procuratore capo di Palermo Messineo, che oggi intervistato da Felice Cavallaro sul Corriere della Sera, alla domanda ma allora ci sono questi, e lui dice io non posso né confermare né smentire, perché qualunque cosa dicessi rivelerei un segreto istruttorio. Guarda, quindi Messineo ieri, il procuratore di Palermo, ha detto una cosa, ha fatto in una dichiarazione all'ANSA un salto logico che non so come descrivere. Dice prima: apriremo un'inchiesta sulla fuga di notizie a Panorama, perché è evidente che una fuga di notizie c'è stata, e poi alla fine della stessa agenzia di stampa, 10 righe più sotto, quindi non 4-10 pagine dopo, dice comunque sono tutte false le cose che dice Panorama. Allora, delle due l'una: o sono vere, e allora quello è il motivo per cui apri un'indagine su fuga di notizie, oppure sono false, allora non puoi aprire un'indagine per fuga di notizie. Questo francamente immagino che lo capiscano. La contraddizione. Esattamente. E sentiamo due ascoltatori, poi torno a Peter Gomez. Alessandro da Pistoia, buongiorno, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Buongiorno a tutti, a lei e ai suoi ospiti. Beh, una breve considerazione: io ritengo che la massima autorità dello Stato, proprio perché è la massima autorità dello Stato, debba avere il dovere della massima trasparenza nei confronti dei propri cittadini, proprio perché siamo cittadini, altrimenti non siamo. E quindi che vuol dire? Bisognerebbe ascoltare tutto quello che dice al telefono, magari in presa diretta. Ma vuol dire che se deve rendere conto in modo trasparente, senza nessuna ombra, del suo operato. Non capisco per quale motivo le intercettazioni di un qualsiasi altra persona sono state pubblicate e rese pubbliche anche per quello che non c'entrava nulla nei confronti di un'eventuale indagine, mentre siccome il capo dello Stato debba essere... Guardi, Alessandro, intanto c'è la Costituzione, poi Napolitano non è ovviamente indagato di nulla, in questo caso non era intercettato lui, era intercettato Mancino, ma però le chiedo questo, secondo lei, facciamo un'ipotesi di scuola, non Napolitano, ma se Barack Obama dicesse, non so, Vladimir Putin per me è un coglione, in una telefonata privata, lei si rende conto della portata anche se venisse resa pubblica questa cosa? Secondo lei questo avrebbe delle conseguenze nei rapporti istituzionali tra Russia e Stati Uniti? E le faccio questa domanda. Vorrebbe dire che Obama non doveva dire che Putin è un coglione. Il suo vicepresidente dice: sai che ne penso? Secondo me Putin è un coglione. Cioè non può dirlo? Non può dirlo in una telefonata privata? Guardi, può dirlo, ma se poi viene intercettato non capisco per quale motivo non debba essere reso pubblico. Ecco, Peter Gomez, in linea di principio sei d'accordo con quello che dice l'ascoltatore? Guarda, io la vedo da questo punto di vista. Noi giornalisti non dobbiamo pubblicare tutto il materiale giudiziario o tutte le cose che veniamo a sapere, ma pubblicare esclusivamente le cose che valutiamo essere delle notizie. Non tutto va pubblicato. Allora, per quanto riguarda la questione Napolitano, la questione è certamente spinosa. Napolitano la poteva, a mio parere, si è mosso male in questa situazione. Poteva muoversi in due maniere. Poteva dire da una parte pubblicamente: pubblicate le mie intercettazioni, a questo punto lasciando la palla nel campo della Procura di Palermo, perché quelle intercettazioni in realtà sono segrete e verranno distrutte, oppure semplicemente poteva dire niente. Ha ragione l'ascoltatore quando dice che allo sta che a Napolitano, come Presidente della Repubblica, ha un dovere di trasparenza. Facevi un esempio che riguardava Barack Obama. È vero che se Barack Obama in privato con il suo vicepresidente dice una roba del genere, ha perfettamente il diritto di dirlo. Ma è altrettanto vero che se negli Stati Uniti fosse venuto fuori che ci sono delle intercettazioni che riguardano il Presidente e che il Presidente si muove per chiedere la loro distruzione immediata, al di fuori delle regole stabilite in quel momento, il presidente Barack Obama, come spiega Alexander Stille oggi in un'intervista sul Fatto Quotidiano, si sarebbe trovato nei giardini della Casa Bianca tutti i giorni Fox News. C'è una celebre perché la censura negli Stati Uniti non è prevista. Beh, ma neanche in Italia, fortunatamente. I padri fondatori hanno stabilito negli Stati Uniti, come dice una celebre sentenza, che la stampa non fosse sottoposta a censure perché fosse libera di censurare l'operato del governo. Da questo punto di vista le tutele del presidente americano sono quasi minori, perché come sapete il presidente americano per tradizione si autoregistra tutti i propri colloqui e tutti i propri incontri. Nel caso del famoso Watergate, la pistola fumante che incastrò Richard Nixon furono proprio le registrazioni dei suoi incontri che la Corte Suprema gli obbligò di rendere pubbliche. Sono democrazie un po' diverse. Poi è vero, la prova si forma realmente in aula. È vero che si è meno utilizzo delle custodie cautelare, ma è anche vero che per esempio negli Stati Uniti è possibile per incastrare i corrotti, cosa che non è possibile fare in Italia, utilizzare l'agente provocatore, cioè un poliziotto che sotto copertura va in giro a offrire soldi. È un sistema diverso e forse più democratico del nostro. Allora io vorrei sentire Daniele dalla provincia di Cuneo. Daniele, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma io parto dal presupposto che se intercettassero me e pubblicassero mie affermazioni, diciamo, da un punto di vista personale non sarei contento, sinceramente. Però se nei contenuti delle telefonate ci sono dei risvolti di interesse pubblico che riguardano la cosa pubblica, allora in quel caso trovo che sia giusto fare un po' una distinzione, cioè se il presidente lascia delle affermazioni di carattere personale, quelle effettivamente possono, magari a seconda della sensibilità del giornalista, essere messe o meno sul giornale. Le altre più importanti, ripeto, di carattere pubblico, a mio avviso dovrebbero essere pubblicate. Anche che probabilmente nella situazione in cui vive l'Italia, tirare fuori tutta questa situazione riguarda un po' probabilmente il voler tornare a battere sulle intercettazioni, il bavaglio, eccetera. Su questo, vorrei concludere proprio su questo con Maurizio Tortorella, perché è un po' paradossale effettivamente, visto che la posizione di Panorama è nota, anche la tua sul tema intercettazioni, che proprio Panorama abbia fatto questo gioco. Come si evolverà questa vicenda? Cioè, se ti chiedessi leggere le intercettazioni di Napolitano su un giornale, tu ovviamente diresti già mai, non lo vorrei mai, sarebbe un esempio di non democraticità. Non succederà. Perché scrivere tutto questo? No, ma per rispondere al tuo primo interlocutore, se non ricordo Alessandro che aveva una voce da toscano, avete fatto anche voi un esempio di scuola parlando di Barack Obama, ma mi permetto di ricordare che per mesi sulla stampa italiana ha furoreggiato una presunta intercettazione attribuita a Silvio Berlusconi che parlava della culona la Merkel. Culona, sì. E voglio dire che quella forse qualche problema internazionale all'Italia lo ha creato obiettivamente, anche lì intercettazioni disposte in maniera anomala che riguardavano altri personaggi e nelle cui conversazioni incidentalmente è caduto il telefono di Silvio Berlusconi. Voglio dire, e tutto è stato pubblicato sui giornali in maniera assolutamente indebita. In America, che ne dica Alexander Stille, l'articolo 2511 del codice prevede che chiunque, giornalisti compresi, riveli intenzionalmente o tenti rivelare i contenuti di una comunicazione telefonica intercettata, rischia una multa e la detenzione per più di 5 anni. O entrambe. Quindi l'America ha nei confronti di intercettazioni, e infatti di intercettazioni in Italia, in America non se ne leggono sui giornali, un atteggiamento estremamente più severo che di quello che la prassi italiana concede. E francamente questo avviene in qualunque paese civile. In ogni caso lo scontro istituzionale c'è, il dibattito sui giornali, se volete approfondire, qualunque giornale oggi approfondisce questo tema. Io vi ringrazio, qui mi fermo. Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, e Peter Gomez del Fatto Quotidiano, grazie per essere stati con noi. Ricordatevi, da lunedì iniziamo prima alle 6:30, svegliatevi, accorrete alla radio, accendete e ci ascolterete alle 6:35. Con noi ci sarà Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, l'alpino Peter Bescapelli in regia. Siamo sempre noi, semplicemente ci alziamo, ci sbrandiamo, io personalmente alle 5 del mattino. Evviva! Ci sentiamo lunedì alle 6:35.